mi arma, sta terra mi catina, sta terra mi catina, lo vento si gigia. Sopra o monti gli dei mi spiano tutto il cuore, ma non ci ascoltano. Testa di la gente, non mo canciare mai, non cancia mai a menti, si tata si ne sta. Parra matula, o carra passai, salica e sapibetta, priato si ne fa.